Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Martedì 19 ottobre, bentornati di nuovo su Liberi Dentro Eduradio TV, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Io sono sempre Caterina, qui con me c'è Antonella Cortese. Ciao Antonella. Ciao a tutti. E siamo sempre in onda su Radio Città Fujiko, ore 9, dalle 13 alle 14 su Lepida, in replica alle 17, e dalle 17 alle 18 su Teletricolore, canale 636, e nel fine settimana con orari diversi che vi indicheremo alla fine della settimana. Mentre vi annunciamo appunto le notizie di oggi, che seguiranno con Antonella, in realtà io oggi ho una lettera dal carcere della Dotta di Bologna, che ci parla della riforma della giustizia cartabia, cosiddetta, perché in realtà io ho chiesto proprio a un detenuto di scrivermi a proposito di questo argomento e lui ha raccolto le opinioni all'interno della sua sezione e mi ha risposto così. Che questo tema della riforma è piuttosto scottante, che la indicheremo come riforma Cartabia, ma è la riforma della giustizia per l'appunto, e quindi lui ci scrive che altro non è che una delega conferita al governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. Questo governo l'ha voluta, l'ha dovuta anzi approvare con urgenza, perché anche a questa riforma erano legati i fondi stanziati dall'Europa Recovery Fund e soprattutto per evitare gli effetti negativi che la precedente riforma del ministro Bonafede avrebbero causato, rendendo i processi veramente molto molto lunghi. Caterina, prima di tutto vorrei ringraziare Fabrizio perché ci sta facendo conoscere un po' l'opinione del carcere ed è molto molto importante. E poi ti voglio chiedere, ma l'opinione è positiva su questa riforma o no? Stando a quanto ci scrive Fabrizio, ci sono due aspetti da tenere ben presenti. Da un lato non può che essere valutata positivamente proprio il lavoro compiuto dalla ministra, perché ha introdotto tempi certi per la celebrazione dei processi e l'improcedibilità nei casi in cui tali tempi non venissero rispettati. In più è stato anche molto apprezzato dai detenuti l'impulso alla giustizia cosiddetta riparativa e al ruolo della mediazione, oltre che alla previsione di stanziamenti importanti per il reclutamento di nuovo personale e anche per la tecnologizzazione degli stessi uffici giudiziari. Ma per rispondere direttamente alla tua domanda, Antonella, quali impressioni i detenuti abbiano avuto di questa riforma? Ecco, tra i detenuti ci sono anche detenuti con condanne piuttosto lunghe, per esempio le condanne definitive, per esempio in reparti come il penale, come a Bologna, dove si entra con condanne superiori ai 7 anni. Ebbene, leggendo testualmente cosa ci scrive Fabrizio, il risultato è uno solo: la montagna ha partorito un topolino. Questo perché, scrive Fabrizio, erano veramente alte le aspettative della popolazione detenuta, che aveva salutato con grande entusiasmo l'addio del giustizialista Bonafede e la sua sostituzione con la nuova ministra. E infatti la Cartabia, al di là della sua indiscussa capacità professionale dei trascorsi all'interno della Corte Costituzionale, in cui è stata anche la prima donna a ricoprire l'incarico di presidente, ha da sempre parlato del suo sogno di una giustizia dal volto umano. Ed è proprio questo sogno, scrive Fabrizio, che i detenuti hanno fatto loro. Poi naturalmente è una lettera molto lunga che non vi posso leggere tutta, ma è molto interessante e mi preme ricordare come Fabrizio e tanti detenuti come lui abbiano ben a mente cosa dice la Costituzione all'articolo 27, ovvero il fatto che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e che devono invece tendere alla rieducazione. Mentre nella maggior parte dei casi la pena non tende alla rieducazione, ma si trasforma in una degradazione del condannato fino a connotarne tragicamente il destino. Il carcere, continua Fabrizio, come ben sanno i detenuti, non ha mai riabilitato nessuno e non ha mai determinato il reinserimento delle persone, ma ha avuto il risultato di prigionarizzare i reclusi, ossia di incoraggiarli ad assorbire abitudini e costumi tipici dell'ambiente penitenziario. Caterina, scusami, ma che cosa si attendono i detenuti dal governo dopo, diciamo, la conclusione di questa tornata elettorale amministrativa nelle grandi città? Per le carceri, innanzitutto si aspettano che il principio, che il debito sì, debba essere risarcito, il debito che loro hanno verso lo Stato per quello che hanno commesso, ma non con il sacrificio della libertà, ma non, con un buon impegno di questa libertà, per esempio con una prestazione a favore della comunità ferita, per esempio i lavori socialmente utili. E poi che il governo, una volta ultimata questa anche fase emergenziale da Covid-19, possa mettere in atto una riforma organica dell'ordinamento penitenziario, limitando la prigione ai soli delitti più gravi. Questo perché, nella misura in cui il carcere debba essere necessario, deve diventare un luogo presidiato da diritti e garanzie. In terzo luogo, per ora le aspettative dei detenuti restano sempre a ribasso, per cui l'attesa riguarda in particolar modo la possibilità che il governo possa concedere 75 giorni di liberazione anticipata semestrale in luogo degli attuali 45, e ciò al fine di ristorare i detenuti per questi 2 anni di pandemia vissuti senza alcun contatto col mondo esterno. Quindi io ringrazio anch'io Fabrizio e quanti con lui hanno contribuito alla scrittura di questa lettera per Edu Radio TV e per voi ascoltatori, e rimaniamo con una canzone a tema con De André. Come una specie di sorriso venne alla spiaggia un assassino, 2 occhi grandi da bambino, 2 occhi enormi di paura, erano gli specchi d'un'avventura. E chiese al vecchio dammi il pane, ho poco tempo e troppa fame, e chiese al vecchio dammi il vino, o se te sono un assassino. Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno, non si guardò neppure intorno, ma verso il vino spezzò il pane per chi diceva o sete o fame. Fu il calore d'un momento, poi via di nuovo verso il vento, davanti agli occhi ancora il sole, dietro alle spalle un pescatore, dietro alle spalle un pescatore, e la memoria è già dolore, è già il rimpianto d'un aprile giocato all'ombra d'un cortile. Vennero in sella 2 gendarmi, vennero in sella con le armi, chiesero al vecchio se lì vicino fosse passato un assassino, ma all'ombra dell'ultimo sole s'era assopito il pescatore e aveva un solco. E rieccovi, bentornati dopo il brano musicale, continuiamo con il nostro, ormai il martedì lo sapete per noi è itinerante, viaggiamo con Antonella, tocchiamo città diverse e questa volta Antonella ci parla di Sarajevo. Sì, Caterina, vi parlo di Sarajevo perché è una delle mie città del cuore e voglio partire con una poesia. La poesia si chiama Una. È il mio fiume in guerra, linea di demarcazione di 2 parti di mondo, muro di Berlino di miliardi di goccioline che abbiamo costruito nelle babiloniche notti di guardia, bramando con tutta la forza di distruggerlo. È il mio fiume, la mia stella terrestre, non così famosa come il Guadalquivir, ma comunque scorre attraverso il mio cuore, giustificando perfettamente il suo nome. Queste sono le parole di Farouk Shekic, che nel 1992, a 22 anni, quando cominciò la guerra in Bosnia, si arruolò nell'esercito appunto della Bosnia Erzegovina. Però vorrei cominciare a parlare di Sarajevo in questo momento, poi riallacciandomi alle sue belle parole, perché ha una bellissima descrizione della sua città. E Sarajevo, come vi dicevo, è la capitale della Bosnia Erzegovina. È una piccola città sul fiume Miljacka ed è circondata dalle Alpi Dinariche. Nel cuore della città si trovano musei che commemorano la storia locale, c'è quello famoso di Sarajevo 1878-1918, dedicato all'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando nel 1914, che poi tra l'altro scatenò la Prima Guerra Mondiale. Poi ci sono molti monumenti nel centro storico, tra i quali è molto importante menzionare la moschea ottomana di Gazi Husrev Bey. E cosa ci racconta lui della sua Sarajevo? Guarda, ti leggo una parte del suo articolo. Lui dice: la mia Sarajevo purtroppo si rimpicciolisce giorno dopo giorno. Le persone vanno e vengono in questa città, dove si continua a costruire, spesso in modo disordinato, ma quello che non può essere ricostruito rimane nei ricordi. Ho scritto un intero libro su questa città, un libro di poesie, innumerevoli testi giornalistici e letterari. Ho innestato questa città nella mia opera d'arte e la città si è innestata dentro di me. È stato un processo bidirezionale. Ho provato un paio di volte a trasferirmi in un'altra città, ma senza successo. Chi vive a Sarajevo o ci ha vissuto sa quanto ciò sia difficile. E invece della sua vita a Sarajevo ha delle memorie? Allora, lui continua dicendo che la vita a Sarajevo è per molti versi più facile perché aspira a vivere relativamente bene lavorando poco. A Sarajevo questo è possibile. In realtà l'intera Bosnia è così. E in qualche modo si sopravvive. La gente ama divertirsi e godersi la vita. Le tentazioni dell'edonismo vi aspettano dietro ogni angolo. Il cibo è buono ed economico, soprattutto per chi arriva dall'Europa occidentale o da altri paesi ricchi. La gente è accogliente e calorosa, ad eccezione di alcuni tassisti e simili truffatori. Qui la vita è bella, ma solo per chi è in grado di costruire intorno a sé una capsula impenetrabile, un guscio indistruttibile, per evitare che quell'energia negativa di cui è impregnata l'atmosfera della città penetri nel suo organismo. E quando ci parla di questa energia negativa, che cos'è che non funziona a Sarajevo? Allora, guarda, ti cito ancora delle cose che dice lui. Dice che Sarajevo è l'unica capitale europea dove in qualsiasi momento può verificarsi un'interruzione nell'erogazione dell'acqua potabile, che può durare per giorni. A volte, grazie a una fortuna cosmica, lui dice, capita che il mio quartiere e la mia strada vengano risparmiati dalle riduzioni dell'acqua, da mezzanotte fino alle 5 del mattino. Ma ci sono stati anni in cui non ho mai avuto acqua da mezzanotte fino al mattino. È vero, Sarajevo in un certo senso è una città mitica. Sappiamo di quanti strati è composta la sua storia. Tuttavia di questa storia oggi rimane ben poco nella città. Nel XVI secolo gli edifici del centro storico di Sarajevo erano dotati di riscaldamento a pavimento, ovvero di impianti di riscaldamento a vapore, e il sistema di approvvigionamento idrico funzionava meglio dell'attuale. Anche i primi tram comparvero ben presto, ben prima della loro comparsa a Vienna. Continuiamo a parlare di Sarajevo la prossima settimana, però, Caterina, perché la città è importante, ha tanta storia, ha tante stratificazioni. Però adesso lasciamo parlare la musica di chi è da Sarajevo c'è stato, ed è Goran Bregovic, che la riassume così. Lui dice: la mia musica è una miscela, nasce dalla frontiera balcanica, una terra misteriosa dove si incrociano tre culture, ortodossa, cattolica e musulmana. Goran Bregovic con Kalashnikov. Canzone del 1995, ascoltiamola. Rieccovi, bentornati a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, sempre su Liberi Dentro di Radio TV. Il nostro ospite di oggi è Paolo Aleotti. Ciao Paolo. Buongiorno a tutti, buongiorno, ciao, ciao Caterina. Giornalista, documentarista per la RAI per tanti anni e che da anni conduce a Milano il laboratorio Teleradio Reporter a Bollate, il carcere di Bollate, di cui poi ci parlerai in una prossima puntata. Oggi parliamo, facciamo un po' un salto nel passato. Come mai hai scelto questo lavoro? Perché prima io sapevo che tu studiavi ingegneria, ma poi cosa è successo? Esatto, ma direi quasi per caso, che poi io non credo assolutamente al caso perché uno si costruisce la vita, però studiavo ingegneria ed ero tanto contento, mi piaceva veramente tanto, mi divertivo e però lo stesso erano tempi così forti, duri, interessanti, c'era un sacco di fermento nell'aria, per cui io decisi piano piano di andare via di casa, diciamo, anche se ero molto giovane, e chiesi a mio papà di darmi una mano. Non ero proprio un rivoluzionario di quelli che voleva uccidere subito i genitori. Mio papà mi presentò Renzo Arbore, papà faceva il tecnico alla RAI e Arbore faceva una trasmissione che si chiamava Per voi giovani. Mi assunse praticamente come telefonista, rispondevo alle telefonate. Ma rispondendo a tante telefonate, erano i tempi in cui i giovani scappavano di casa, erano i tempi in cui le scuole erano occupate, le fabbriche occupate, a forza di rispondere a tanti messaggi e a segnalarli a quelli che andavano in giro a fare le interviste, ero così entusiasta che un giorno mi dissero ma vai tu a fare un'intervista, mi dirono un registratore grande così, in Nagra. E io partii, tornai talmente entusiasta e talmente volevo fare questa cosa che chiesi a mio papà, tecnico Rai, di aiutarmi al montaggio. Venne una cosa fatta molto bene, motivo, cioè pregio di mio papà e non mio, e quindi iniziarono a farmi fare queste cose, e quindi io iniziai pian piano a fare il giornalista. 8 anni di precariato, bieco precariato, non si fa solo oggi il precariato, dopo un po' decisi di passare da ingegneria a sociologia, e così, insomma, diciamo, è iniziata la mia strada. Paolo, sul mestiere del giornalista e anche del reporter c'è una bellissima frase di Kapuscinski che diceva il cinico non è adatto a questo mestiere. E quindi io ti chiedo che cosa ti ha spinto poi a fare il giornalista già in tenera età? Quella è una delle mie frasi preferite, veramente brava ad averla citata, la adoro, anche perché oggi tutti pensano che per fare i giornalisti bisogna essere brutti, cattivi, delle iene tremende, e non è così, non è così, bisogna essere, diceva Kapuscinski, buoni, bisogna avere curiosità, creare empatia con le persone che tu intervisti. Per risponderti faccio una marcorda ancora più profondo, vado a quando avevo 10 anni, ero stato promosso in prima media, mio papà mi regalò un regista Torino, gelosino di quelli che mica a batteria come adesso. Io avevo tanti dubbi perché facevo il chierichetto e ero pieno di dubbi sulla mia fede. Mi scrissi 10 domande, andai a intervistare 10 parroci intorno a me e feci il primo reportage della mia vita. Dico la verità, le risposte non furono così convincenti, tanto che gettai la cotta alle ortiche. E diciamo che la mia fede me la sono tenuta dentro, ho cominciato ad avere meno fiducia, insomma, negli apparati esterni, e però questo fu il mio primo documentario, reportage, e questo pian piano, siccome io poi mi convinco che non è che mi determino nella vita, ma seguo il flusso, vedo quello che faccio il giorno prima per capire chi sono e dove voglio andare. Ecco, se il giorno prima avevo fatto questo, ecco che ti spieghi perché pian piano ho continuato a fare questa cosa. Grazie Paolo, è il momento di lanciare una canzone. Allora, per la canzone ho pensato, perché quando andai via di casa per andare a lavorare con Arbore, andai a vivere con un mio amico che viveva con Alan Sorrenti. Quindi andai a vivere con Alan Sorrenti, il cantante, e da quel momento pian piano cominciai a conoscere Antonello Venditti, Roberto Vecchioni, venivano tutti a cantare lì nella nostra casina. E allora per questo direi che forse potremmo ascoltarci, siamo i figli delle stelle di Alan Sorrenti. Rieccovi, bentornati sulle note di Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, questa canzone che ci ha lanciato Paolo adesso. E abbiamo parlato del mestiere del giornalista, di questo grande cuore che ci vuole, però forse ci vuole anche un po' di fortuna. La tua grande fortuna qual è stata? Hai un consiglio anche da dare a chi ci sta ascoltando e magari dice nel suo cuore anche io vorrei fare il giornalista, anche io vorrei, sono curioso, vorrei conoscere il mondo e le persone e raccontarlo. Consigli, come sai, non si possono dare, però si può raccontare la propria esperienza. La mia esperienza è stata di aver avuto la fortuna di incontrare delle persone belle, ricche dentro, che si innamoravano della mia voglia, della mia passione, della mia curiosità e in qualche modo la sponsorizzavano. Io non sono bravo a sponsorizzare me stesso, però a farmi conoscere ci tengo. Quindi loro mi incontravano e io contemporaneamente sapevo che... Avevo tanta curiosità di andare in giro, di guardare, di raccontare. Uno dei miei credo è vivere come se davvero si diventerà grandi e bene, come se davvero, che ne so, l'Italia vincerà l'Europeo, come se incontrerò un giorno dietro l'angolo le persone più belle con la bandiera che mi piace di più e mi unisco a loro, come se, ecco. E allora vivere come se davvero i nostri sogni si potranno realizzare. Ho fatto questo e ho avuto la fortuna anche di resistere, di essere un po' resiliente quando mi tolsero la mia piccola trasmissioncina di cinema a cui tenevo tanto, non ci rinunciai. Io lottai come se prima o poi avrei vinto quella battaglia. L'ho vinta perché mi hanno cacciato via, dicevo vattene 15 giorni in America per togliermi dalle scatole, il mio direttore non ne poteva più. E è scoppiata la guerra del Golfo, sono partito per New York per 15 giorni, ci sono rimasto 10 anni. Ecco, quindi il consiglio è pensate che uno squarcio spazio-temporale un giorno o l'altro si apre, basta che ci arrivate preparati. Quindi studiate l'inglese, il francese, l'arabo, oggi quello che volete, arrivate preparati come se un giorno diventerete davvero giornalisti e succederà. Bellissimo il tuo come se e allora proprio... Proprio perché ci stanno ascoltando, secondo me, persone molto resilienti anche in questo momento, anche dalle celle delle carceri, ma non solo, anche tra la cittadinanza. Allora abbiamo parlato di umanità, ascoltatevi The Killers con Human. E io intanto Paolo ti ringrazio e ci rivediamo la prossima volta. Grazie, arrivederci a presto. Siamo giunti al momento dei saluti finali dopo aver ascoltato il nostro ospite di oggi che è per l'appunto Paolo Aleotti, giornalista di Teleradio Reporter al carcere di Bollate e abbiamo i dialoghi sulla cittadinanza con le mie interviste a Franco Milone, ex detenuto, lui si definisce un detenuto anomalo, ascolteremo il perché e anche la sua storia. E vi ricordo sempre di scriverci redazione liberidentro @gmail.com oppure Chiesa Santissima Annunziata via San Mammolo 2 40 136 Bologna per la posta che volete inviarci fisica. Un saluto sempre da me che sono Caterina, Antonella Cortese, Denea Flacco e noi ci rivediamo domani. Grazie, ciao. Liberi dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.